Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari gastronauti, cari radioascoltatori. Bene, credo che se molti di voi saranno di ritorno dalle ferie e quindi saranno magari incastrati, intasati, spero di no, ma insomma succede ogni anno quando ci sono questi weekend nelle file o all'andata o al ritorno. E allora vi ascolterete una trasmissione, io credo, molto interessante, perché parleremo di vino rosato, parleremo di bollicine rosé, anche se qualcuno non vuole più che si usino bollicine, io continuo a usarlo, qualcun altro vuole che non si usi naturale, magari chissà, un domani non si potrà più usare anche artigianale. Questo è un paese appunto che vive sui momenti un po' particolari di grandi tendenze, ma poi non viene disciplinato mai niente, ma non c'entra niente con il vino rosato. Torniamo al nostro vino rosato, bollicine rosé. Ebbene, io credo che questa tipologia particolare di vino negli ultimi tempi abbia avuto un grandissimo interesse. Molti lo ritengono come dicevo, una tipologia di vino in grande crescita. Beh, io ho qualche dubbio, io credo che la crescita ci sia già stata, che ora possa diventare stazionario ma non possa ancora crescere, però magari ora avremo tutta una serie di grandi esperti con i quali parleremo di questo argomento. E allora il vino rosato e le bollicine rosé saranno un boom o il mercato comincia ad essere saturo? E vediamo anche quali possono essere le ragioni di questo successo e cominciamo a parlarne con un esperto. Buongiorno Massimo Di Cintio. Buongiorno a tutti. Perché Massimo Di Cintio per anni ha fatto anche una guida ai vini rosati, quindi devo dire che è un grande esperto appunto della materia. E allora Massimo, io la prima domanda che ti faccio è proprio questa: è un boom continuo questo del vino rosato e delle bollicine rosé, oppure diciamo c'è qualche nuvola all'orizzonte? Ma insomma, negli anni scorsi, diciamo a partire dagli inizi degli anni 2000, è stato davvero un boom ed è cresciuto davvero quasi a dismisura, se vogliamo. Io ricordo le prime edizioni della guida che avevo ideato e pensato e poi realizzato, e assaggiavo circa 350 rosati. Io soltanto 2 anni fa ho provato a contare quante etichette avrei dovuto assaggiare se avessi fatto una ulteriore edizione della guida, devo dire che avevo superato quota 1000 etichette in Italia, almeno di vini diciamo che si trovano in commercio, per cui io credo che sia cresciuto ancora un po', ma questa tendenza evidentemente si deve arenare, si deve fermare e quindi consolidare, come facevi accenno tu. Sicuramente le bollicine sono quelle che nessuno vuole chiamare bollicine, comunque gli spumanti rosé sono cresciuti moltissimo, ci sono zone come l'Oltrepò Pavese che addirittura ha investito in un progetto molto interessante quale quello del Croisé, ma le regioni importanti, quelle che sono storicamente destinate alla produzione di vino rosato, naturalmente hanno affermato il loro brand, i loro vini anche fuori dai confini italiani. Stai parlando della Puglia? Sto parlando soprattutto della Puglia, soprattutto dell'Abruzzo con il Cerasuolo, soprattutto del Garda, l'area del Garda, il Garda classico e l'area del Bardolino, quindi dei due chiaretti, quindi intorno al Garda, hanno lavorato tantissimo negli ultimi anni per affermare anche fuori dai confini i vini rosati, e le crescite in termini di numero di bottiglie prodotte e di vino venduto sicuramente ha dato loro ragione. Ecco, ma io volevo aggiungere questo: non è detto che crescendo di tanto la produzione sia cresciuta di tanto la qualità e quindi la ricezione del mercato? Guarda, sulla qualità devo dire che siamo migliorati tantissimo. Io faccio sempre il raffronto all'inizio degli anni 2000, quando il rosato era visto davvero come il fratello povero di tutti gli altri vini. Si è capito che bisogna essere attenti innanzitutto nella fase di raccolta delle uve, perché vanno raccolte un po' prima per mantenere sempre quei profumi. C'è la tecnologia, la tecnica di vinificazione che naturalmente li deve saltare anche un po' le caratteristiche dei vitigni che sono utilizzati, quindi per renderli ad esempio più sfruttati nella zona dell'Abruzzo, quando parliamo del cerasuolo, ma magari più sapidi, più raffinati nella zona del Garda, o più di sentore di macchia mediterranea se parliamo dei vini del sud, quindi quelli del Salento, della Puglia. Ecco, allora lì se c'è l'esaltazione dei vitigni utilizzati, c'è l'esaltazione ovviamente attraverso delle tecniche che consentono di conservare i profumi primari, che sono quelli che poi piacciono naturalmente ai consumatori e che invitano poi a bere più sorsi di un vino rosato, appunto. Grazie a Massimo Di Cintio, grazie. E ora chiederò a Alessandro Regoli. Buongiorno Alessandro. Ciao David. Che è fondatore e direttore di Wine News, visto che fanno tantissimi sondaggi e sono sempre, diciamo, come si dice, sul pezzo del consumo del mercato, chiederei: ma secondo te e secondo appunto le ricerche che fate continuamente, il vino rosato è veramente in questo momento un vino che corre sul mercato, oppure ha una stagnazione rispetto, diciamo, alla crescita che aveva fatto negli anni passati? Bah, direi che è un vino comunque che fa tendenza e che quindi sicuramente anche nel periodo soprattutto estivo incontra a buona visibilità e buoni consumi. Insomma, noi nei nostri sondaggi appunto abbiamo un po' testato questa tendenza e sinceramente è una tendenza che viene confermata. Del resto ci sono anche dei dati che possiamo anche portare: un bicchiere di vino su 10 bevuto nel mondo è in rosa, e quindi è una passione che comunque c'è, cresce, tanto che anche la produzione è salita del 13% negli ultimi 8 anni, sto parlando di dati mondiali, quindi è arrivata a 25 milioni di ettolitri in tutto il mondo. Il 75% di questo consumo arriva da Francia, che è il primo produttore mondiale, Italia, Stati Uniti, che è il paese che ne beve di più, il 35% del totale, e dalla Spagna, quindi sono consumi essenzialmente europei e negli Stati Uniti. Quindi il mercato italiano, anche il mercato italiano segue quello mondiale, ovviamente. Io ho un po' questa impressione che in questi anni, diciamo, questo effetto traino del mercato abbia convinto moltissimi produttori a entrare sul mercato del rosato, diciamo, senza averne i vitigni giusti o anche la produzione giusta. E non lo so col tempo però quale sarà appunto la reazione del mercato quando la qualità verrà distinta dal resto. Non so tu cosa ne pensi. Ma senti, io ne facevo un calcolo appunto di consumo e di tendenza, e questo non vuol dire che consumare una cosa, a volte la qualità è le qualità ci sono un po' per tutti i gusti. Probabilmente il rosato è un fenomeno abbastanza giovane che ha bisogno ancora di essere, come dire, c'è da lavorarci anche in Italia, insomma. C'è da lavorare ancora, ecco, sul fronte della qualità. Ci sono dei buoni rosati, ma il lavoro secondo me ancora deve essere approfondito e migliorato. Sulla qualità forse c'è ancora da lavorare, da migliorare, ecco, su questo siamo d'accordo, insomma. Ecco, considera che il 40% della produzione è localizzata nella regione Puglia, seguono Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Calabria, quindi sicuramente, diciamo, sono le regioni emergenti della viticoltura che si stanno un po', soprattutto la Puglia, che si sta affidando a questo al rosé, insomma, e sicuramente stanno lavorando bene, ma insomma ancora c'è da lavorare, tant'è che hanno dato vita anche a un concorso nazionale dei vini rosati. Certo. Insomma, l'assessore Stefano ci sta lavorando molto, sì, che lo sentiremo, sul rosato in Puglia. Fra poco lo avremo con noi, appunto, e sentiremo dalla sua viva voce, visto che la Puglia sta insistendo. Ti faccio un'ultima domanda provocatoria. Molti dicono che si sceglie il rosato quando, diciamo, si è indecisi tra il rosso e il bianco. Tu cosa ne pensi? Ma io non penso sia così. Io penso che sicuramente il consumo del rosato è legato molto alla stagionalità, secondo me, quindi lo vedo come un consumo da fare soprattutto, diciamo, nei periodi estivi, insomma i 3-4 mesi dell'estate. Allora può essere una soluzione. A tutto anno non lo vedo, ecco, questo è un po' il mio personale termometro, insomma, che posso valutare anche dalle località in vacanza dove sono stato in questi ultimi 20 giorni, ecco. Bene, grazie al nostro Alessandro Regoli di Wine News. Abbiamo sentito alcuni punti importanti, quindi crescita mondiale enorme e quindi anche il mercato italiano trainato, crescita della qualità ormai come tutti dicono, quindi sicuramente questa tendenza continuerà di sicuro sul mercato e ora poi andremo a vedere anche altri aspetti diciamo territoriali, ma andiamo a sentire anche magari con qualche sommelier importante che ci dica appunto quali sono le caratteristiche rispetto ai bianchi e ai rossi. Linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. Buona giornata di nuovo cari radioascoltatori, qui ho un bicchiere di vino in mano, un bicchiere di uno splendido rosato e uno di bollicine. Allora, visto che ho questi due bicchieri, continueremo a parlare di questo vino, diciamo che fino a qualche anno fa era abbastanza sconosciuto ed era considerato né carne né pesce, come si dice. Sì, qualche bollicina, ma soprattutto champagne era rosé. Ora ci sono molte bollicine made in Italy e moltissimo vino rosato che è cresciuto in questi ultimi anni, ma io volevo capire un po' le caratteristiche degustative del vino rosato e poi vediamo anche delle bollicine. E allora le chiedo al globetrotter del vino italiano, le chiedo al campione mondiale di sommelier Luca Gardini, che un giorno in Messico, l'altro giorno negli Stati Uniti e poi in Sicilia, non so dove sia in questo momento. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Luca, in questo tuo giro vagare, ogni tanto sicuramente assaggerai, degusterai e presenterai dei vini rosati, immagino. Sì, devo dire che negli ultimi periodi, negli ultimi anni, negli ultimi mesi, sempre di più il rosé è ormai una realtà concreta, soprattutto quello che è anche la parte della spumantistica e delle bollicine, però anche nei vini fermi sta avendo un suo riscontro, devo dire che stanno andando bene, sono apprezzati, soprattutto anche quello che è il lato più femminile, delle bevute più facili e più easy, diciamo. Ecco, tu a chi lo consiglieresti, cioè un rosato? Cioè è un vino secondo te da tutto pasto, è un vino che può servire se c'è diciamo freddo in estate, può essere abbinato a qualsiasi tipo di piatto, cioè diciamo alla maggior parte dei piatti, quindi un vino che serve tenere anche in cantina e diciamo serve tenere nella carta dei vini perché è un jolly. Io penso che il vino rosato è un vino e soprattutto si può utilizzare versatile, sicuramente lo vedrai anche molto bene come aperitivo, poi bisogna vedere anche che tipi di rosato, ovviamente se hai delle bollicine rosé l'aperitivo è adatto, dei vini fermi rosé si possono mettere anche su dei salumi particolari, dei piatti di pesce un po' più corposi, comunque secondo me le varie possibilità che il vino rosato può dare sono ottime e è un vino interessante, ne sono usati veramente dei buoni ultimamente. Ecco, rimani con noi perché ora andiamo da Angelo Peretti, oltre che essere un bravissimo giornalista e anche direttore comunicazione del Consorzio Tutela del Bardolino e quindi di un'area, secondo me, del Chiaretto e di altri vini che in questi ultimi anni ha avuto una crescita veramente impetuosa. È così, Angelo, vero? Ma sì, assolutamente sì. Noi siamo passati in 5 anni da 5 milioni e mezzo di bottiglie di Chiaretto a 11 milioni di bottiglie di Bardolino Chiaretto in soli 5 anni. Tra l'altro con un raddoppio dei prezzi all'ingrosso, quindi significa che la domanda è addirittura più alta di quella che è la nostra offerta. C'è un grosso interesse per il rosato, c'è un grosso interesse in particolare per il chiaretto, la condizione perché ci sia l'interesse è l'assoluta fedeltà all'identità territoriale. In Italia abbiamo alcune macro aree di vini rosati che possono dare vini di grandissima identità, purtroppo ci presentiamo in mercati internazionali in ordine sparso, sto pensando al Salento, all'Abruzzo, al Lago di Garda insomma in particolare, ahimè non facciamo sistema, questa è la lacuna che abbiamo come italiani. Poi lo lanceremo ad altre aree, tu rimani con noi, ora voglio andare in enoteca perché sicuramente abbiamo sentito prima diciamo un bravissimo degustatore, poi abbiamo sentito chi si occupa direttamente sul campo, allora voglio capire se veramente la domanda è cresciuta di vini rosati, di bollicine rosé e lo chiedo ad Alessandro Bulzoni dell'Enoteca Bulzoni di Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo chiedere, la domanda di vini rosati e di bollicine rosé è cresciuta negli anni? Dunque, sicuramente c'è stato un aumento di richiesta, un aumento di interesse. Io vorrei far presente, vorrei far notare che questa richiesta probabilmente è dovuta a diversi fattori. Uno potrebbe essere un po' la moda, la riscoperta di un prodotto rosato, quale potrebbe essere appunto uno spumante o champagne. E un altro motivo secondo me potrebbe essere il fatto che spesso i vini rossi hanno perso, alcuni tipi di vini rossi hanno perso un po' la loro facilità di beva, quindi hanno lasciato un mercato aperto per il vino rosso leggero, e l'interesse si è spostato automaticamente su vini rosati. Quando arriva un consumatore, cioè i consumatori sono decisi e dicono vogliamo un vino rosato o le bollicine rosé, oppure magari diciamo stanno verificando, guardano e poi alla fine magari molte volte anche indecisi finiscono per prendere un rosato o le bollicine rosé? Ma il consumatore di solito viene e già chiede un vino rosato, uno spumante rosato, e comunque noi durante l'estate, in sostituzione del vino rosso, proponiamo anche un vino rosato che rimane più leggero e più facile da bere. Certo. Grazie Bulzoni, la ringrazio. Prego. Grazie. Prego. Ora voglio tornare un secondo con Gardini e voglio chiederle se ci sono tantissimi champagne straordinari rosé. Ci sono anche tra la spumantistica italiana questi livelli? Sì, devo dire che Davide, oltre che champagne rosé, anche la nostra spumantistica italiana, da quello che può essere la Francia Corta al Trento DOC, abbiamo delle ottime eccellenze. Devo dire che mi è capitato di recente di assaggiare nei miei ultimi assaggi, in alcune anteprime, dei prodotti eccellenti che rispecchiano il grande momento della spumantistica italiana e del grande territorio che l'Italia ha anche per gli spumanti e i metodi classici. Ecco, una bollicina rosé, diciamo sia champagne che parliamo di spumanti italiani, includiamo anche il Franciacorta di OCG sulle bollicine, anche se l'amico Zanella forse non vorrebbe. Volevo chiedere appunto, secondo te è adattissimo a tutto pasto anche per una grande cena, magari in estate? Beh, sicuramente lo sfumante rosé su alcune sfumature si può adattare veramente alla grande e anche meglio di magari di base solo Chardonnay o Chardonnay Pinot Nero o Pinot Nero vinifichi bianchi, perché ha questa struttura, questa versatilità, questo gusto magari a seconda dello stile che il produttore dà, più rotondo, più persistente, più profondo, che si abbina a tutto pasto. Sicuramente anche la rosé lo vedo anche molto più per l'inverno, non solo per l'estate, quindi devo dire che è molto versatile. Sicuramente uno spumante rosé servito a temperatura giusta d'estate, in una bella sera con un bel menù, si sposa alla perfezione. Bene, grazie a Luca Gardini, a presto Luca e buon viaggio per i tuoi tanti viaggi. Ma porti anche il vino rosé in giro per il mondo, immagino. Sì, non solo i vini rosé, anche altri vini. Va bene, certo. Va bene, torniamo ad Angelo Peretti, torniamo ad Angelo Peretti perché ha fatto un'analisi appunto di crescita. Allora voglio chiedere, Angelo, tu che osservi attentamente i fenomeni, ma questa crescita è dovuta anche molte volte all'indecisione del consumatore? Io ti faccio una provocazione, né carne né pesce, allora scegliamo il rosato? Ma probabilmente no, questo era vero probabilmente in passato, nel momento in cui c'era l'indecisione si sceglieva il rosato. Oggi sto notando una consapevolezza molto maggiore da parte del consumatore in merito al vino rosato. Noi come consorzio del Bardolino in particolare abbiamo fatto condurre a una società di ricerca un'indagine sul consumo dei vini rosati e le risultanze sono state di un consumo, vorrei dire, colto. Cioè il consumatore di vino rosato è un consumatore che ha titolo di studio abbastanza elevato, che ha posizione professionale abbastanza elevata, cioè un consumatore molto consapevole delle scelte che fa. Tant'è che per quello che riguarda il nostro Chiaretto in particolare stiamo notando un fenomeno a cui non eravamo pronti neppure noi. Si sta in parte destagionalizzando il consumo, cioè nel mentre fino a 2-3 anni fa il consumo di Chiaretto, il consumo di vino rosato era un consumo esclusivamente estivo, da settembre in poi non vendevi più una bottiglia, non imbottigliavi più una goccia di vino. In questo momento, da un paio d'anni a questa parte, stiamo notando una interesse al consumo dei rosati anche nel periodo autunnale, che mi si permetta di dire è un consumo interessantissimo, perché nel periodo autunnale ci sono alcuni piatti, che so, di castagne o di altri prodotti stagionali che si sposano benissimo col rosato, quindi non è più un consumo, diciamo, in carne né pesce, è un consumo più consapevole. E prima diceva Gardini, il rosato è un vino, ecco, sempre più gente comincia a pensare che non ci siano più solo i rossi e i bianchi, ma ci sono anche i rosati, le categorie sono almeno tre, insomma. Sì, sì, credo che è stato accolto, diciamo, recentemente, negli ultimi anni sicuramente è stato accolto con grande interesse. Un'ultima cosa ti volevo chiedere, ma visto che appunto hai un banco d'osservazione di questi vini, non è che, io l'ho chiesto anche prima, non è che molti rosati arrivano oggi sul mercato proprio perché molti produttori, come si suol dire, vanno dietro la tendenza e sperano di vendere appunto oltre con dei vini rosati, e sono in molti casi anche improvvisati? Assolutamente sì, e temo che saranno molto presto disillusi anche. Prima lo diceva molto correttamente l'enotecario che abbiamo sentito. C'è una ricerca di vini più bevibili rispetto ai vinoni di qualche tempo fa, e quindi c'è chi si era posizionato esclusivamente come produttore sul vino robusto, concentrato, corposo, che oggi si trova spiazzato e quindi tenta la carta facile, apparentemente facile, del vino rosato. In realtà il vino rosato è un vino tecnicamente difficilissimo da realizzare e quindi ha bisogno di grande esperienza, non solo, ha bisogno di grande identità. Io ritengo che sempre di più ci sarà una polarizzazione rispetto a quei territori che storicamente sono vocati al vino rosato e che hanno una precisa identità nei loro rosati. Per altri io credo che siano tentativi velleitari che purtroppo si dimostrano dei boomerang per i produttori. Le vie di fuga, le vie facili non esistono nel mondo del vino. Serve tradizione, serve competenza, serve fedeltà al territorio, serve fedeltà alle proprie origini. Non puoi cambiare dalla sera alla mattina uno stile produttivo. Bene, grazie ad Angelo Peretti, ti ringrazio per questa tua analisi. Devo aggiungere che un tempo le carte dei vini, dei ristoranti, avevano tantissime pagine sui bianchi, sui rossi, sulle bollicine, poi in fondo c'erano magari due vini rosati. Bene, oggi sta cambiando, e questo, diciamo, questi cambiamenti lo si vedono anche dalle carte dei vini, perché non sono più due, ma sicuramente vengono incrementati, il numero viene incrementato, e anche questo succede per le bollicine, anzi ci sono molti ristoratori che hanno paginate intere proprio sulle bollicine delle bollicine rosé. Bene, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di vini rosati, di bollicine rosé. Un po', diciamo, stiamo segnando quello, diciamo, i segnali che ci dà il mercato, perché il mercato sembra veramente orientato, come già abbiamo sentito, in questa direzione. Bene, abbiamo con noi un prestigioso produttore di vino, un'azienda che io, senza fare falsi ipocrisia, amo molto, ed è l'azienda Valentini. Buongiorno a Francesco Valentini. Buongiorno Davide. Valentini, oltre a produrre un grandissimo Montepulciano e un Trebbiano d'Abruzzo, davvero vini che hanno fatto e fanno la storia del vino italiano, produce un vino che si chiama Cerasuolo, che io devo dire, fino a qualche anno fa, Valentini e Francesco, appunto, era poco conosciuto, cioè non si capiva cos'era, e forse non era neppure valutato per quanto valesse. Ecco, è così, o io, diciamo, vedo in maniera negativa questo fatto che è successo nel passato? Sì, in effetti così, ma questo penso che riguardi un pochino tutti i rosati in genere. Però il Cerasuolo è un rosato atipico, diverso, diciamo, dagli altri rosati. Ultimamente se ne parla di più. Per quanto riguarda, diciamo, le caratteristiche, io dicevo che è un vino diverso dagli altri rosati, perché è un vino che ha una maggiore struttura alcolica, è un vino che va dai 13, 13 e mezzo, 14 gradi, un'acidità abbastanza alta e un estratto pure molto abbastanza alto, simile a un vino rosso. Quindi è un vino diverso dagli altri rosati ed è il nostro vino tipico abruzzese. Cerasuolo deriva dal greco, Kerasion, ciliegia, appunto per questa sua particolare caratteristica del colore, un colore piuttosto diciamo intenso. Ed è un vino che sta ultimamente risalendo la china, è un vino che si presta molto diciamo con vari piatti, sia dagli arrosti di pesce, quindi è particolarmente valido nel periodo estivo, ma anche con piatti più impegnativi anche d'inverno grazie a questa sua particolare struttura. Ultimamente ho avuto anche modo di assaggiarlo con la pizza, non ti nascondo che l'ho trovato piuttosto gradevole. Sì, un vino che sicuramente si presta molto con la pizza. Rimani con noi, Francesco, perché abbiamo Damiano Calò di Rosa del Golfo. Ebbene, Rosa del Golfo, io devo dire che lo ricordo come gli antesignani dei vini rosati. Se non è stato il primo, insomma, è stato tra i primi, è stato quello che ha fatto la storia del vino rosato. E allora io voglio chiedere a Damiano Calò, appunto, quando è nato la prima bottiglia di Rosa del Golfo? Buongiorno Damiano. Buongiorno Davide, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Dunque, la prima bottiglia di Rosa del Golfo è nata alla fine degli anni 60, la prima annata precisamente nel 67. Quindi diciamo lontano nel tempo. Che vitigno? È sempre stato lo stesso vitigno ovviamente? È sempre stato il Negromaro, che è il vitigno più diffuso nella nostra zona, che è il Salento, e col quale nel Salento si è sempre prodotto il rosato, col sistema antico dell'estrazione a lacrima, quindi la parziale macerazione di solo 24 ore del mosto sulle bucce, come si è sempre fatto da noi, insomma. Senti Damiano, come spieghi che diciamo per anni questo vino, non dico che è stato clandestino il rosato, ma insomma se ne è parlato sempre poco e poi negli ultimi tempi invece se ne parla molto, il numero dei produttori è cresciuto, il consumatore ha cominciato ad apprezzarlo. Secondo te cos'è successo? Sicuramente, come dici giustamente tu, per tanti anni è stata veramente difficile proporre questi vini che per noi sono di tradizione, sono la nostra storia, fuori dalla nostra zona. Secondo me è stata una mancanza di cultura su questo tipo di prodotto e della comunicazione errata su questo tipo di prodotto. Onestamente dobbiamo dire che i rosati che 20, 30, 40 anni fa hanno fatto molto successo qualitativamente, poi erano quello che erano, quindi hanno fatto sì che il consumatore si staccasse un pochino. Negli ultimi anni, grazie alle aziende che ci credono come la nostra, che hanno lavorato bene su questo prodotto, grazie a voi giornalisti che avete cominciato a comunicarlo in una maniera più professionale, spiegando che un vino a sé non è un vino di scarto, che è un vino che ha carattere, ha frutto, che si presta a tanti abbinamenti, che con i caldi di questi giorni è perfetto, per esempio, insomma, il consumatore si sta avvicinando e lo stiamo riscontrando sul mercato. Ecco, rimani con noi, io voglio tornare un secondo a Francesco Valentini. Il cerasuolo, diciamo la tecnica di produzione è la stessa dei rosati e poi magari in un secondo tempo più avanti vedremo anche questo, oppure diciamo è tradizionale come si fa il vino, come si fa il Montepulciano e come si fa il Trebbiano? La tecnica di vinificazione del rosato varia. Diciamo, c'è chi fa vinificazione in presenza di vinacce e chi invece vinifica in assenza di vinacce. Poi dopo si decide a seconda dell'annata se c'è più o meno materia colorante. Io personalmente preferisco fare una vinificazione in assenza di vinacce. Ho capito. Damiano Calò, e invece il rosato, il Rosa del Golfo? Rosa del Golfo viene fatto a livello enologico con questa tecnica che nel Salento una volta si chiamava lacrima, quindi dove vengono pressate le uve, durante la notte inizia la fermentazione, le bucce salgono, formano il cappello e noi il giorno dopo, quindi dopo circa 24 ore di macerazione, un solo passaggio delle bucce attraverso il mosto, da sotto per caduta estraiamo quello che è il mosto fiore, per quello si chiama lacrima, si dice che il contadino una volta piangeva perché era molto costoso questo prodotto farlo. Quindi per caduta estraiamo la parte principale, il mosto fiore, che è rosa perché è stato a contatto con le bucce solo 24 ore. Da lì va in acciaio dove fa una fermentazione sempre sotto controllo di temperatura. Ecco, ma il Negramaro e quindi vitigno rosso importante, ha questa, sì, questa peculiarità di prestarsi sia appunto per fare, chiamiamolo così, un vino rosso e un vino rosato. Quindi ha un'utilità enorme il Negromaro. Sì, legno che ci permette sia di fare rosati lì a seconda poi delle ore di macerazione, ogni azienda ha il suo stile, sia rosati abbastanza freschi fruttati, ma anche rosati importanti. Noi per esempio abbiamo una riserva che poi fa un passaggio anche in legno, quindi rosati anche di grande carattere, sia vini rossi di una certa stoffa. Noi abbiamo questa fortuna, posso dire, che è un vitigno che si presta a queste lavorazioni. Non è un caso infatti che, come tutti ben sanno, nel passato è stato un vitigno molto utilizzato per il vino da taglio, no? Quindi vuol dire che aveva delle caratteristiche che ben si prestarono a più lavorazioni in cantina. Bene, grazie a Francesco Valentini, grazie col tuo grande cerasuolo, e a Damiano Calò, vi ringrazio, e buona produzione appunto di rosati. Bene, ora abbiamo con noi anche un assessore, l'assessore della politica agricola della Regione Puglia. Perché? Perché sicuramente la Puglia in questi ultimi anni è stata la regione che più di ogni altra ha spinto, ha organizzato tantissimi eventi. E allora voglio chiedere a Dario Stefano se saranno gli anni del rosato. Ciao, buongiorno. Ma io credo che sono gli anni del rosato, e questi anni ci hanno consegnato l'opportunità, attraverso il rosato, di promuovere di più e meglio questa nostra specificità enoica nel mondo. Sono gli anni del rosato perché il rosato è lo strumento che ci consente di entrare con maggiore facilità nelle nuove generazioni che si avvicinano al consumo del vino, nei nuovi paesi, nei nuovi mercati che si avvicinano al consumo del vino. Però attraverso il rosato portiamo tutta un'esperienza che è fatta anche di altre specificità, che fanno ormai della Puglia e dell'Italia il protagonista principale nel mondo, e quindi sono gli anni del rosato. Beh, ti faccio una provocazione, hai detto vino per giovani, allora lo accostiamo alla pizza, lo lanciamo come prodotto da pizza anche? Ma una delle caratteristiche del rosato è quello di poter essere gustato senza particolari problemi, con tutte le pietanze, quindi, come si suol dire, di essere a tutto pasto, anche con la pizza e il rosato, perché no? Soprattutto nelle stagioni più calde, nelle quali la temperatura del rosato, con la quale si gusta il rosato, si avvicina molto di più al gusto, non solo delle giovani generazioni. I giovani per noi sono una componente importante, perché vorremmo anche recuperare sul tema del consumo del vino una comunicazione un po' più corretta rispetto a quella che è stata fatta negli ultimi anni. Il vino ha perso in Italia, anche perché si è comunicato in maniera errata che fosse, diciamo, accomunabile ai super alcolici. Questa è una bella scommessa che stiamo realizzando. I dati sono in crescita esorbitante, e io sono uno statistico un po' pragmatico, guardo, cerco di fotografare quello che accade intorno a me. Ora, quando giro per i ristoranti la sera, è sempre più facile trovare sui tavoli dei ristoranti una bella bottiglia di vino rosato. Sì, infatti l'ho sottolineato prima che le carte dei vini un tempo avevano grandissime pagine sui bianchi e sui rossi, poi avevano un rosato oppure una bollicina rosata. Ora in realtà si sta implementando, e questo è già un segnale molto importante, però io ti voglio fare una provocazione, che è questa: io ho l'impressione che sicuramente sia un grande momento per il rosato e anche per le bollicine rosé, però che dietro a questo, diciamo, traino di mercato importante, molti produttori si stiano improvvisando nel vedere appunto in questa domanda di rosato forse un'ancora di salvezza, e credo che bisogna stare molto attenti alla qualità nei prossimi anni. Condivido esattamente questa lettura che hai dato. Come tutti i fenomeni, quando esplodono, la responsabilità principale, soprattutto di chi governa i processi, è quella di inserire un perimetro all'interno del quale generare politiche di qualità. Per noi il tema del rosato ci espone a questo rischio, ma è un rischio che stiamo cercando di controllare al meglio, anche attraverso, ad esempio, le caratteristiche di un concorso nazionale nei vini rosati, dove siamo stati inclementi, dove abbiamo voluto far emergere tema della qualità come bussola di riferimento assoluta. È un rischio, ma credo che il sistema nazionale sia pronto a governarlo al meglio. Bene, io ti ringrazio. Grazie a Dario Stefano, assessore alle politiche agricole della Regione Puglia, che, come hanno ammesso tutti fino a questo momento, diciamo, gli interlocutori che abbiamo sentito, sommelier, enotecari e anche giornalisti, è, diciamo, l'area più importante di, forse non solo d'Italia, sulla produzione dei rosati, sulla quale sicuramente vale la pena che ci si punti nei prossimi anni per sviluppare sempre di più questa regione che ancora, secondo me, non ha dato il meglio della sua produzione vinicola, e quindi tutti stanno aspettando appunto ancora un salto di qualità della Regione Puglia. Bene, io passo, ringrazio Stefano e passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di vini rosati, di bollicine rosé. Ebbene, abbiamo fatto un giro, abbiamo sentito sommelier, abbiamo sentito enotecari, abbiamo sentito esperti di mercato su questa tipologia particolare di vino. Io ho tenuto per ultimo un discorso importante, che è quello della produzione. Perché? Perché ci sono dei luoghi comuni sui vini rosati, è inutile nasconderlo. C'è chi pensa che sia bianco mescolato col rosso, c'è chi pensa che sia molto facile. Allora io ho con, diciamo, ho con noi Mattia Vezzola, enologo di Bellavista, ma anche produttore in proprio appunto di bollicine rosé e di vini rosati. Ed ho Leonardo Valenti, che è un enologo, ma anche lui sicuramente ha delle sue grandi esperienze in questo settore. Allora proprio voglio chiedere questo, voglio partire, partiamo da Mattia Vezzola. Ma è veramente così facile, come pensa la gente, a produrre un rosato o le bollicine rosé, Mattia? Penso che il rosé sia uno dei vini più difficili in assoluto da produrre, specialmente quando si è obbligati, come nel caso della Valtenese, della Oligarda, a produrre rosé o chiaretti esclusivamente da uve rosse. Quindi è una tecnologia, una vinificazione di altissima raffinatezza. Ecco, rimani con noi, perché ora voglio sentire Valenti. Ma Leonardo, ma è vero che si può ottenere, anche mescolando il vino rosso col vino bianco, un buon rosato? Sì, ciao Davide, buongiorno ai tuoi radioascoltatori. Sì, si può, e in effetti, detto francamente, i champagne fanno bollicine con due metodologie: o partono direttamente da delle uve rosse da Pinot Nero e le schiacciano e fanno questo prodotto che è derivato da un filo di macerazione, oppure fanno una base bianca e aggiungono un po' di vino rosso e poi fanno il rosato. Quindi si può anche dire che si ottiene così, ma Mattia Vezzola, ma in Italia i disciplinari sono un po' diversi, vero? No, disciplinare, diciamo che lo champagne, come il Franciacorta per esempio, sono gli unici disciplinari in cui si prevede l'utilizzo di poter utilizzare vini bianchi a vini rossi, chiaramente per ottenere un rosé, però parto con delle filosofie già prefissate, cioè bisogna dichiarare già all'inizio, alla partenza, che vuoi fare un rosé, e chiaramente dallo Chardonnay non si può fare un rosé, quindi è normale, no, che si aggiungano dei vini dedicati apposta, vinificati apposta per produrre dei vini rossi leggermente scarichi, che abbiano nella loro qualità diciamo la grande raffinatezza dei vini bianchi, ma il colore, affinché aggiunto a parti di Chardonnay diano queste tonalità più o meno intense di rosé. Ecco, nel metodo classico, nel metodo di lavorazione del metodo classico, sono comunque prassi ormai da 200 anni ben codificate. Ecco. Invece Valenti, il vino, cioè il vino rosato, come si ottiene? Il vino rosato si parte sempre da uve rosse, e normalmente le uve bianche non vengono mai utilizzate, per cui, come diceva giustamente Mattia, si partono da varietà più o meno colorate, si fa una breve macerazione, più o meno lunga a seconda del livello di intensità di colore che si vuole ottenere, e poi dopo si fa una fermentazione tendenzialmente in bianco. Quindi appunto, diciamo, la procedura non è così semplice come molti pensano. E Mattia, volevo chiederti questo: ci sono tentativi di, diciamo, invecchiamento dei rosati, dei vini rosati? Beh, dobbiamo pensare, sì, ci sono dei tentativi di ritornare a fare dei vini che possono vivere più a lungo. Non dimentichiamo che fino agli anni 65-70 tutte le vinificazioni dei vini rosé venivano comunque evoluti ed elevati in botte, quindi le fermentazioni, come diciamo l'evoluzione in botte, dava sì un vino diciamo rosa, ma comunque temprato nella sua struttura, nei suoi profumi, affinché questo vino potesse vivere a lungo. Poi le ultime 20 anni si è continuato a spingere verso i vini freschi, i vini profumati, i vini che io, insomma, diciamo di tecnologia, per cui hai questi profumi che vanno dal frutto della passione fino all'acetone, no? Che sono acetone nel senso di smalto, no? Di questi profumi intensissimi, che sono profumi che vengono spinti dalla tecnologia, che si allontanano da quello che è l'origine della terra. Ecco, io penso che da ormai da 10-15 anni sono delle aziende in Italia, no, che ritornano a produrre rosé da territorio, e quindi da zone vocate a produrre rosé, cioè dove nel 1896 già, per esempio sul lago di Garda in Val Tennesi, si piantavano le vigne non per fare i vini rossi, ma per fare i vini rosé, perché il suolo, cioè il terreno e il clima, che è tipico diciamo mediterraneo, sono vocati prevalentemente a produrre vini di grande raffinatezza come il rosé. E quali sono le altre aree, secondo te, importanti, diciamo vocate, come dici tu, dal tempo? Italia, diciamo che secondo me è Salento, no? la parte salentina, ecco, dove c'è tradizione di fare rosé, e poi nell'area europea chiaramente la Provenza, dove dall'epoca romana si facevano vini rosé, però soltanto negli ultimi 20 anni hanno capito che il rosé non è un colore, non è una moda, ma è un grande vino. Per cui sono riusciti in 20 anni a coniugare la parola rosé alla parola territorio, Provenza, o Côte de Provence, o Aix-en-Provence, o Bandolo, Tavel, per cui il consumatore quando compra una bottiglia unisce il colore, quindi vino, al territorio, e questo dà garanzia di produttività, di serietà, di vocazionalità, che è quello che secondo me la Val Tennesi oggi, come il Salento, hanno iniziato a produrre con questo spirito. Leonardo, io ho questa impressione che in questi anni sicuramente la domanda è cresciuta, il numero di produttori è cresciuto, ma che molti produttori siano stati attratti da questo fenomeno appunto importante, da questo trend importante, e il rischio sia che anche con l'andare del tempo ci sia molta improvvisazione, cioè che molti produttori scelgono diciamo questa strada del rosé o del rosato semplicemente perché tira la tendenza. Tu cosa ne pensi? Sì, in effetti è vero, perché i mercati si parla sempre di un mercato del rosato che è in espansione, che in qualche modo è significativo, per cui il produttore cerca di cavalcare anche questo tipo di situazione, perché è un'apertura di mercato. Secondo me ritengo che le zone di vocazionalità per fare rosato esistono, il metodo per fare rosato non è uguale a scimmiottare un prodotto qualsiasi, ma ci vuole storia e tradizione. Parlava giustamente Mattia della Provenza, io ho assaggiato 62 o 63 da Domenot qualche anno fa, era ancora perfetto. Naturalmente vinificazione in legno, grandi botti, conservazione, poi i prodotti possono durare. Questo fa territorio, fa tante cose. Però il fatto di andarci incontro con la moda può anche essere una logica che di approccio per alcuni produttori, ma non è corretto, perché sarà effimero questo tipo di successo. Ma devo dire che anch'io ho bevuto delle vecchie bottiglie di Cerasuolo di Valentini e devo dire che le ho trovate veramente straordinarie. È un'altra zona che ci siamo dimenticati. Ecco, l'Abruzzo. L'Abruzzo. Appunto con il Cerasuolo. Un'ultima cosa, Mattia, mi sembra anche scontata, visto le produzioni di cui si occupa, che è questo, che le bollicine rosé, veramente bollicine, so che non dovrei usarlo quando parlo di Franciacorta, Dio CG, però è talmente una bella parola che scappa e quindi si usa, e si usa come. Devo dire che le bollicine rosé negli ultimi anni italiane sono cresciute notevolissimamente, si trovano dei grandissimi prodotti e devo dire che forse emuli dei grandissimi champagne rosé, non so cosa ne pensi, Mattia. Hai toccato un tasto, Davide, che guarda, è fantastico, nel senso che Io pur occupandomi da tre generazioni di rosé, ti posso dire che facendo un rosé in Franciacorta mi sono reso conto negli ultimi anni che della grande armonia, della grande suadenza, della croccantezza che hanno, della leggerezza che hanno i rosé della Franciacorta rispetto non ai francesi ma al resto del mondo, perché il territorio e la climatologia della Franciacorta fa dei grandi vini, ma che possono essere sublimati dai rosé, chiaramente come la legge, come il decimale prevede, devono avere minimo il 30% di Pinot Nero, quindi tu hai da una parte la freschezza e l'eleganza del portamento dello Chardonnay e dall'altra c'è questi frutti di bosco, hai queste fragoline, hai questi profumi intensi, meravigliosi e complessità gustativa e attraverso un rosé puoi andare dall'aragosta, capito, fino passando dal caviale fino ai prosciutti più saporiti e fino al cotechino con le lenticchie, per dirti. Quindi... il cotechino secondo me è perfetto. Io ritengo che sia perfetto il cotechino con le bollicine, con le bollicine di rosé è perfetto. Voglio chiedere, perché anche Leonardo si occupa anche lui Franciacorta, quindi anche lui penso la pensi alla stessa maniera. Sì, io penso che comunque, anche se tu hai una base di Pinot Nero, sempre di Franciacorta, ottieni quel qualcosa in più, perché in Franciacorta è vero, c'è un Pinot Nero che non è tipo quello dell'Oltre Po Pavese, che è più potente, più strutturato, più femmineo, diciamo, da un certo punto di vista, ma partendo da base di Pinot Nero si ottiene forse una longevità maggiore del prodotto. Bene, grazie a Leonardo e a Mattia, veramente mi è piaciuto questo duo e questa chiarezza. E io bene, chiudo qui con i rosati e i rosé, vi do appuntamento per la replica di questa trasmissione domani alle 18 e ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05 e sempre la domenica con il riposo del guerriero. Buon weekend da Davide Paolini.